Vale, non corrido. Sì, adesso gli faccio vedere. Va bene. Paolo, mi è arrivato l'avviso, sto aspettando che mi arrivi l'accredito in banca. Sì, va bene. Sì, che mi ha detto. La settimana prossima e l'altra settimana in primavera. Prima do un colpo di telefono. Sì, tanto lì il numero di telefono. Adesso gli faccio vedere. Allora, questo lo metto qua. Poi c'è anche quello radio con questi due, sì, questi sono due e gli altri due PRG 100 più la calcolatrice. Sì. E la calcolatrice. 60 euro, 63 euro. E poi prendo. Sì, faccio 2 euro, 2 mesi. Ancora, e l'Aves si è di là, adesso io vado a allora scegli, mi fai la somma? È sempre questo, guardi. E anche questo qua. Non l'abbiamo ancora aggiunto, questo qua aggiunge 1000 euro in tutto, allora, che questo arrotondiamo un po' come... Dove è quello controllato, questo? Radio quello lì è quello radio controllato. Che bello, anche questo è molto bello. Sì. Allora, questi sono due più nuovi, più l'Aurex omaggio, e allora nella somma c'è anche questo qui, come... Sono 1000 giondi, sì, esatto. Sì. Va bene, quando riceve l'accredito... Sì, guarda, bello, tutti quanti. Questo è un profondimetro, questi sono altimetri, quello radio controllato, qualche 1000 euro mi porto via tutto qua. Esattamente. Bello questo, questo è il mio. Più quello là che è l'orato. Esatto. Va bene, ho visto che ci sono sempre. Senti, prima di venire dentro devi una colpo di telefonata al mattino e prima dentro il pomeriggio. Sì, d'accordo. Perché una volta sono passato le vacanze per forza. Sì, magari non c'ero. Ciao Paolo, ti ringrazio. Questo è l'ultimo. Ci vediamo allora. La prossima volta. Che temevo, magari li ha venduti. No, questi no, anche perché... Allora, adesso mi sono sincerato. Questi sono proprio nuovi, quindi sono cose che ho sempre. Sì. Questi due, questo ne ho due, quindi anche se ne ho uno. Questo qui è l'ultimo, però, un profondimetro, adesso... Allora, invece allora puoi cambiare la cinturina. Sì, quello da quando è il momento... Esatto, senti, devo cambiare anche degli orologi, da rotamare, da cambiare la pila e anche da... da riparare. Sì, mi ricordo. C'è un la calcolatrice. Che però la tastiera se me la deve portare. Me ha detto quando mi ha detto orologi porta anche le riparazioni. D'accordo. Già che ci sono. Vabbè, arrivederci, buonasera. Niente, a me